questo disco di merda. Ok, ho finito questo disco e mi vado a suicidare, mi ammazza perché la vita mi ha rotto i coglioni.